Egli ha anche chiamato in senso figurato calice il compimento della sua passione, calice che egli doveva bere e vuotare da solo. Pertanto il cibo per Cristo era compiere perfettamente la volontà del Padre. Per noi bambini, invece, che succhiamo il Logos dei cieli, Cristo stesso è il cibo. È per questo che cercare si dice masteusai, perché ai bambini che cercano il Logos viene dato il latte degli amorevoli seni, mastoi, del Padre. Il Logos dichiara anche di essere il pane dei cieli. Non Mosè, infatti, dice, vi diede il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane vero dal cielo. Il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà la vita al mondo. Il pane che io vi darò è la mia carne per la vita del mondo. Qui dobbiamo subito sottolineare il senso mistico che ha il pane. Egli lo chiama carne, intendendo sicuramente la sua carne risuscitata, anistamene. Infatti, come il grano Pyros nasce anistatai dalla decomposizione e dalla seminagione, così anche la sua carne, passata attraverso il fuoco di Apiros della risurrezione, si ricompone per la gioia della Chiesa come pane una volta che è stato cotto. Ma questo tema sarà da noi illustrato meglio nel libro sulla resurrezione. Per quel che concerne invece ciò che egli dice «e il pane che io darò è la mia carne», poiché la carne è irrigata di sangue e il sangue è simboleggiato dal vino, bisogna sapere che come il pane spezzettato in una miscela di vino e acqua assorbe il vino e lascia la parte acquosa, allo stesso modo anche la carne del Signore, il pane dei cieli, beve e assorbe il sangue, nutrendo così per l'incorruttibilità gli uomini che appartengono al cielo, e lascia via solamente i desideri della carne che vanno alla corruzione. In molti modi, dunque, viene designato allegoricamente il Logos, come cibo, carne, nutrimento, pane, sangue, latte. Il Signore è tutte queste cose a beneficio nostro, dal momento che abbiamo creduto in Lui. E nessuno si meravigli se diciamo che il sangue del Signore è simboleggiato dal latte. Infatti, non è forse simboleggiato anche dal vino? Egli lava la sua veste nel vino, dice, e il suo mantello nel sangue della vite. Afferma cioè che con il suo stesso sangue adornerà il corpo del Logos, come, d'altronde, con il suo spirito nutrirà coloro che hanno fame del Logos. Che il sangue sia il Logos è poi testimoniato dal sangue di Abele, il giusto. Il suo sangue si rivolse a Dio. Ma certamente il sangue non può emettere voce e quindi evidentemente quel sangue è da intendere come il Logos. Il giusto antico, infatti, è figura del giusto nuovo, e il sangue antico, che si rivolgeva a Dio, parlava per il sangue nuovo. Il sangue, cioè il Logos, grida a Dio, alludeva così al Logos che avrebbe sofferto. Ora, la carne stessa e il sangue che è in essa sono irrigati e nutriti dal latte, in segno di filiale riconoscenza. Una volta avvenuto il concepimento, infatti, l'embrione prende forma grazie al mescolarsi del seme con il residuo puro lasciato dal flusso mestruale. La potenza che è nel seme, quindi, addensa la natura del sangue, proprio come il caglio coagula il latte, e così struttura la sostanza mutante. A questo punto la miscela è piena di vita, ma se vi è un eccesso di sostanza si rischia la sterilità. Anche nella terra il seme inondato da pioggia eccessiva è spazzato via, o se vi è aridità si secca, mentre è solo un'umidità densa che dà coesione al seme e lo fa germinare. Alcuni ritengono che anche il seme animale non sia che la schiuma del sangue, della stessa sostanza di questo. Il sangue, cioè fortemente scosso e surriscaldato dal calore naturale del maschio durante l'amplesso, diventa come schiuma e si incanala nelle vene spermatiche. Secondo Diogene di Apollonia, è per questo motivo che gli amplessi sono detti afrodisia. Da tutte queste cose risulta chiaro che il sangue è la sostanza del corpo umano. E anche ciò che è nel ventre materno è inizialmente una materia umida simile al latte. Poi questa stessa materia si trasforma in sangue e diventa carne, prendendo consistenza nell'utero per effetto del soffio naturale caldo, il quale plasma l'embrione e gli dà vita. Ma anche dopo il parto il neonato è nutrito ancora con lo stesso sangue. Infatti il flusso del latte mantiene la natura del sangue. Il latte è fonte di nutrimento, è il segno evidente che una donna ha partorito veramente ed è diventata madre, ed è grazie al latte che essa acquista quell'incantevole tenerezza che caratterizza una madre. È per questo che lo Spirito Santo, parlando misticamente per bocca dell'Apostolo e rifacendosi alle parole del Signore, dice: «Vi ho abbeverati con latte». Se infatti siamo stati rigenerati per Cristo, colui che ci ha rigenerati ci nutre con il suo proprio latte, che è il Logos, giacché è naturale che chiunque generi offra poi subito nutrimento al generato. E come la rigenerazione, così anche il nutrimento dell'uomo è spirituale. In tutto e sotto ogni aspetto, invero, noi siamo stati assimilati a Cristo per essere imparentati a Lui grazie al suo sangue con cui ci riscatta, per essere in sintonia con Lui grazie all'educazione che ci viene impartita dal Logos e per raggiungere l'incorruttibilità in virtù della guida che Egli ci dà. Tra i mortali, l'allevare i bambini procura spesso più magia d'affetto che il solo generarli. È lo stesso sangue, dunque, e lo stesso latte che sono il simbolo della passione e dell'insegnamento del Signore. Il latte mescolato con acqua, miele e vino. A ciascuno di noi bambini è quindi permesso gloriarsi nel Signore quando proclamiamo: «D'illustre padre e sangue mi vanto io di essere». Che il latte derivi per trasformazione del sangue è ormai a noi chiaro, ma lo si può apprendere anche osservando le greggi e le mandrie. Questi animali, infatti, in quella stagione dell'anno che chiamiamo primavera, quando nell'ambiente vi è più umidità e l'erba e i pascoli sono ricchi di succosa linfa, aumentano il loro sangue, come si vede dal dilatarsi delle vene e dall'incurvarsi delle arterie. Di conseguenza, da questo sangue scaturisce latte abbondante. D'estate, invece, essendo il sangue seccato dall'aridità e dal calore, la sua trasformazione si frena e quindi mungiamo meno latte. Invero, il latte ha una stretta affinità di natura con l'acqua, come l'ha pure, dal canto suo, il lavacro spirituale con il nutrimento spirituale. Il suddetto latte, infatti, se viene bevuto con l'aggiunta di un po' di acqua fredda, reca immediatamente beneficio, poiché l'unione con l'acqua non lascia inacidire il latte, il quale si trova così ad essere migliore, non per opposizione all'acqua, ma proprio per la mescolanza con essa. In verità, la comunione che esiste tra il Logos e il battesimo corrisponde al rapporto tra latte e acqua. Solo il latte, infatti, tra tutti i liquidi, ha questa caratteristica di purificare quando è mescolato con acqua, analogamente al battesimo che conduce alla remissione dei peccati. Anche al miele il latte viene molto opportunamente mischiato e se ne ottiene un cibo allo stesso tempo dolce e purificante. Così il Logos, mescolato all'amore per l'uomo, contemporaneamente guarisce le passioni e purifica dai peccati. A mio parere, quel verso che dice «più dolce del miele la sua voce scorreva» si riferiva al Logos, che è il miele, e assai spesso i profeti lo innalzano al di sopra del miele e del favo. Anche al vino dolce poi si mischia il latte, ottenendone una miscela salutare, che in qualche modo, grazie alla mescolanza delle sostanze, porta alla loro incorruttibilità. Infatti, il latte per effetto del vino produce il siero, e così si divide in due, e la parte spuria viene fatta defluire. Ugualmente, l'unione spirituale della fede con l'uomo soggetto alle passioni trasforma in siero i desideri della carne e dà compattezza all'uomo, stringendolo alle realtà celesti in vista dell'eternità e rendendolo così immortale. Molti usano per le lampade anche la parte grassa del latte, che chiamano burro, simboleggiando con ciò chiarissimamente il Logos ricco d'olio, il quale è l'unico che realmente nutre, accresce e illumina i bambini. Per questo motivo la Scrittura dice del Signore: che egli diede loro da mangiare i prodotti dei campi, li nutrì teneramente con miele di roccia e con olio di dura pietra, con burro di vacca, latte di pecora e grasso di agnelli, e diede loro anche altre cose. Similmente il profeta che annuncia la nascita del bambino dice: «Mangerà burro e miele». Mi fa davvero meraviglia che alcuni abbiano l'ardire di chiamare se stessi perfetti e gnostici, ritenendosi superiori all'apostolo, sbuffanti e gonfi di orgoglio, quando invece lo stesso Paolo diceva di sé: «Non che io sia già arrivato o sia già perfetto, ancora inseguo, nella speranza di raggiungere la meta, come io stesso sono stato raggiunto da Cristo». Fratelli, io non ritengo ancora di aver raggiunto la meta. Ritengo una sola cosa, e cioè che avendo dimenticato le cose che erano prima ed essendo tutto proteso verso quelle che mi sono davanti, inseguo lo scopo per ottenere il premio della chiamata che dall'alto mi viene da Cristo Gesù. Egli, certo, si considera perfetto poiché ha abbandonato la vita di prima e aderisce a quella migliore, ma non in quanto perfetto nella conoscenza, gnosis, bensì in quanto anelante a colui che è perfetto. Per questo aggiunge: «Noi, quanti siamo perfetti, pensiamo così», affermando con ciò palesemente che la perfezione consiste nell'aver abbandonato i peccati e nell'esser stati rigenerati alla fede dell'unico perfetto. Ormai dimentichi dei peccati di prima. Chi è il pedagogo e quale la sua pedagogia? Dio è nostro pastore e pedagogo. Abbiamo dimostrato che noi tutti siamo chiamati dalla Scrittura fanciulli e inoltre che quanti ci siamo messi alla sequela di Cristo veniamo allegoricamente designati come bambini, poiché uno solo è perfetto, il Padre di tutti. In Lui è il Figlio e il Figlio è nel Padre. Ora, proseguendo nell'ordine della nostra esposizione, dobbiamo spiegare chi sia il nostro pedagogo. Egli si chiama Gesù. Alcune volte chiama se stesso pastore e dice: «Io sono il buon pastore». Si paragona ai pastori che guidano le pecore, essendo egli il pedagogo, la guida dei bambini, pastore sollecito dei suoi piccoli. Questi ultimi, infatti, sono semplici e vengono quindi chiamati pecore. Diventeranno tutti, dice, un solo gregge e un solo pastore. Evidentemente questo pedagogo è il Logos che conduce noi fanciulli alla salvezza. Assai chiaramente, parlando di se stesso, il Logos ha detto per bocca di Osea: «Io sono il vostro educatore». E questa pedagogia è la religione, in quanto essa insegna a rendere culto a Dio, ci educa alla conoscenza della verità, ed è la retta formazione che ci guida al cielo. Il termine pedagogia, in vero, può essere usato in vari sensi. È pedagogia quella di chi è guidato e impara. Quella di chi guida e insegna è detta pedagogia la formazione stessa e infine le cose insegnate, come è il caso dei precetti. Quanto alla pedagogia di Dio, essa è il diritto sentiero alla verità, che ha per fine la contemplazione di Dio ed è per noi l'indicazione per una santa condotta in eterna perseveranza. Come lo stratega dirige la falange preoccupandosi della salvezza dei suoi soldati e come il capitano governa la nave nell'intento di custodire sani e salvi i passeggeri, così anche il pedagogo guida i fanciulli indirizzandoli verso un regime di vita salutare a motivo della sua sollecitudine nei nostri confronti. E in generale, tutto ciò che noi chiediamo a Dio, conformemente al Logos, ci sarà dato se obbediremo al pedagogo. Ma proprio come il capitano non sempre asseconda i venti, ma anzi talvolta volge la prua contro vento e affronta di petto le tempeste, così il pedagogo non asseconda i venti che soffiano in questo mondo e non permette che, a causa di essi, la nave, cioè il bambino, si vada a infrangere in un regime di vita bestiale e licenzioso. Bensì piuttosto, sospinto dal solo soffio della verità, maneggia saldamente e fortemente i manubri del timone del fanciullo, cioè le sue orecchie, fin tanto che lo avrà condotto intatto al porto dei cieli. Infatti, i costumi cosiddetti patrii, che ci sono stati trasmessi da esseri umani, presto passano. L'educazione dataci da Dio, invece, è un bene che rimane per sempre. Di Achille dicono che il pedagogo fosse Fenice, dei figli di Creso, invece, Adrasto, di Alessandro, Leonida, e di Filippo, Nausitoo. Ma l'uno, Felice, era donnaiolo, l'altro, Adrasto, era un fuggiasco. Leonida, poi, non seppe contenere l'orgoglio del Macedone, e Nausitoo non guarì l'ubriaco di Pella. Neppure Zopiro il Trace fu capace di mettere un freno alla lussuria di Alcibiade. Ma Zopiro era uno schiavo comprato e Sichinno, il pedagogo dei figli di Temistocle, era un servo neghittoso. Si dice che danzasse e che inventò il ballo detto Sichinnis. Ci sono noti anche quei pedagoghi che presso i persiani erano chiamati regii. I re persiani ne sceglievano quattro, i più eccellenti fra tutto il loro popolo, e affidavano ad essi i propri figli. Ma i giovinetti imparavano da loro solo a tirare con l'arco, e appena raggiunta la pubertà si univano con le sorelle, le madri e innumerevoli donne, sia legittime che concubine, allenati all'accoppiamento come porci. Il nostro pedagogo, invece, il santo Dio Gesù, Logos che guida l'umanità intera, è un pedagogo che è Dio stesso e ama gli uomini.